24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ci sono ancora tante persone giovani che muoiono. La malattia è terribile perché proprio tu soffochi. Io mi ricordo di aver detto al nostro medico di famiglia: dottore, mio marito ha il mesotelioma. Lui stesso si è girato e mi ha detto: e che cos'è sto mesotelioma? Il mesotelioma è un tumore maligno che colpisce il mesotelio, una membrana che riveste parete toracica, polmoni, diaframma e pericardio. Un cancro raro che può estendersi ovunque. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono più di 100.000 i decessi che ogni anno si registrano per il contatto con l'amianto. Nonostante questo, al mondo ci sono ancora 125 milioni di persone che lavorano con questo materiale. In Italia la parola amianto è legata al nome Eternit. Bagnoli, Broni, Rubiera, Reggio Emilia, Cavagnolo, Bari sono tutti luoghi accomunati da uno stesso tragico e fatale destino: la conta dei morti. Ci sono ancora case, ci sono ancora tetti, ci sono ancora lastre di Eternit che nel tempo si sgretolano. E tu, io, che non abbiamo avuto nulla a che fare con questa fabbrica, purtroppo moriamo per questa fibra, si muore. Pensavo che la mia famiglia avesse pagato a sufficienza per quanto riguarda il mesotelioma. Mio padre è morto nel 1983. Più tardi, una carezza materna. E nel dicembre del 2003, mio cugino, di 50 anni. Non bastava ancora. Le solite lastre di routine. Era evidente anche a una profana come me quel polmone sinistro completamente bianco. Voglio fare tutto quello che sarà possibile. Per mio figlio, per me, per chi sarà sfortunato come me. No, non mi vergogno. Voglio dirlo a chiunque. Sono solo indignata. Chissà. Forse riuscirò a spuntarla. Ecco, quella dell'Eternit, del mesotelioma, che produce un dramma che ormai tutti conosciamo. Ne parleremo. Professor Michele Maio, direttore a Siena dell'unico centro di immunoterapia oncologica italiano, presidente del Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori. Professor Maio, poi parleremo del mesotelioma, ma intanto lei è il primo al mondo che fa immunoterapia. Da quanti anni? Buongiorno, io mi interesso di immunoterapia ormai da circa 30 anni, da quando praticamente ero ancora uno studente di medicina. Professore, la rivista Science considera la vostra novità scientifica più importante al mondo, ma esattamente come funziona? Assolutamente sì, Science ha identificato l'immunoterapia del cancro fra le maggiori scoperte del 2013 e sostanzialmente l'immunoterapia del cancro funziona utilizzando farmaci di tipo diverso che attivano il sistema immunitario del paziente, facendo sì che esso diventi in grado di tenere sotto controllo la crescita del tumore. Ecco, professor Maio, cioè, per essere chiari, lei aggredisce il tumore con farmaci invece che con chemioterapia e radioterapia, è così, ho capito bene? Assolutamente sì, è una metodologia terapeutica che in molti casi diventa alternativa anche alla radioterapia e alla chirurgia, che mantengono la loro validità, ma che sfrutta un principio che è completamente nuovo, quello appunto di far sì che il sistema immunitario, che normalmente è in grado di tenere sotto controllo la trasformazione delle cellule che diventano tumorali, possa essere in grado di tenere sotto controllo il tumore quando questo è clinicamente evidente. Ecco, professore, ho capito bene, la sua è una strategia alternativa o complementare alla chemio? Può essere assolutamente anche complementare, nel senso che può essere utilizzata a volte anche addirittura in associazione alla chemioterapia. Ecco, cioè chemio e radio tendono a ridurre o distruggere i tumori, i farmaci invece lo contengono, allenano i muscoli per resistere, com'è esattamente? allenano assolutamente i muscoli e possono... Cioè il sistema immunitario allenano. Assolutamente sì, e possono darci esattamente gli stessi risultati della chemioterapia, quindi tenere fermo il tumore, farlo regredire o addirittura farlo scomparire completamente. Ciò ovviamente quando funziona in tutto nella maniera più efficace. Certo, voi avete cominciato la sperimentazione sul melanoma della pelle, perché? Per caso o per una ragione precisa? Abbiamo iniziato a lavorare ormai molti anni fa sul melanoma, che è un tumore della pelle, perché per questo tumore fino a qualche anno fa, ma intendo dire pochissimi anni fa, non c'era assolutamente alcuna terapia che avesse un impatto sulla sopravvivenza dei pazienti. Ecco, i risultati quali sono? I risultati sono, mi permette di dirlo, direi spettacolari, questo lo sì, sì, ma lo dicono le ricerche. È una valutazione di tutta la comunità scientifica internazionale, le do solamente due numeri. Fino a qualche anno fa, non più del 25% dei pazienti affetti da melanoma metastatico era vivo a un anno, adesso siamo oltre l'80%. Senta, quindi abbiamo più che triplicato i numeri. Quindi nel mondo usate tutti gli stessi farmaci? Voi so che siete coordinati con 120-150 centri mondiali. Assolutamente sì, utilizziamo farmaci che sono disponibili praticamente in tutto il mondo, moltissime volte all'interno di sperimentazioni cliniche che coinvolgono decine e decine, a volte centinaia di centri in giro per il mondo. Ecco, professor Maio, torniamo da dove siamo partiti, dal mesotelioma. Adesso a Siena lo curate con l'immunoterapia, con gli stessi risultati del melanoma della pelle? Con il mesotelioma siamo un po' più indietro, però utilizziamo farmaci che sono assolutamente molto simili in termini di meccanismo d'azione rispetto a quelli che abbiamo utilizzato nel melanoma, e con dei risultati che cominciano a essere estremamente promettenti. Ah, quanti ne avete a Siena in cura sperimentale? Diverse decine. Ah. A Siena abbiamo attivato la prima sperimentazione al mondo con l'immunoterapia nel mesotelioma pleurico. E quanto ormai... dura? Sì, il mesotelioma pleurico, certo. E quanto dura la cura? La cura dura per un periodo di tempo sufficiente a valutare qual è il vantaggio che possiamo dare ai pazienti, nel senso non dura un mese o due mesi, teoricamente può durare anche all'infinito. Ah. Voi vi proponete di allungare la vita o di arrivare proprio alla guarigione? L'obiettivo è quello di arrivare alla guarigione. Certo. In questo momento sappiamo che con l'immunoterapia in altri tipi di tumori, e speriamo a breve di saperlo anche per il mesotelioma, di riuscire a prolungare la sopravvivenza dei pazienti, che è l'ultimo obiettivo che a noi interessa. Certo, ma con lo studio clinico d'avanguardia che state realizzando a Siena, cosa avete scoperto che non sapevate sul mesotelioma? Abbiamo sostanzialmente scoperto che anche il mesotelioma è un tumore che può essere ritenuto sotto controllo in alcuni casi dal sistema immunitario, quindi abbiamo, direi, se posso dirlo, aperto la strada certo, ad applicare questa metodologia terapeutica anche al mesotelioma. Ecco, professor Maio, siete soddisfatti di questi primi risultati del vostro esperimento? Siamo soddisfatti perché, come dicevo, abbiamo la possibilità di cominciare a capire che possiamo incidere su questa patologia. Certo. E quindi questo è un ovvio motivo di soddisfazione. Senta, c'è molto da lavorare. Certo, professor Maio, ma gli effetti collaterali di chemio e radio si conoscono, quelli dei vostri farmaci? Sono molto diversi, sono legati direttamente al meccanismo d'azione di questi farmaci. Attivando il sistema immunitario, questo in alcuni casi dà delle manifestazioni autoreattive. Faccio un esempio per capirci. Semplificare: le allergie da polline sono dovute a una iperreattività del nostro sistema immunitario. In qualche maniera il trattamento immunologico, attivando il sistema immunitario, fa sì che questo possa dare degli effetti collaterali legati a questa attivazione. Ah, ho capito. Senta, ma professor Maio, ma sia a Siena che in America lavorate sulle stesse molecole? Lavoriamo sostanzialmente sulle stesse molecole, sì. Quindi lavoriamo assolutamente sulle stesse molecole, quindi in questo momento sul mesotelioma pleurico si stanno facendo studi con molecole singole, quindi con singoli farmaci. Noi abbiamo già in programma, quindi, e questo studio sperabilmente partirà a Siena, quindi, fra circa un mese, sì, di utilizzare invece due farmaci combinati fra loro, oh, sperando quindi di poter migliorare i risultati. Ancora migliorare. Ecco, professore, ma i medici sono informati sufficientemente sui successi dell'immunoterapia? I medici cominciano a sapere che esiste, che l'immunoterapia è la quarta strategia per combattere il cancro. Certo. C'è molto bisogno di fare ancora educazione, ma non solo in Italia, no, anche all'estero. Senta, spesso per ignoranza o per speranze in più, i pazienti si affidano a viaggi della speranza, soprattutto negli Stati Uniti. Ci sono delle ragioni tecniche o è l'effetto di un buon marketing? Molte volte non ci sono ragioni tecniche. Per farle l'esempio, fino a un anno fa, se un paziente affetto da mesotelioma voleva trovare un trattamento sperimentale di tipo immunologico, doveva venire a Siena, non doveva andare negli Stati Uniti. Ho capito. Senta, lei professore è un'eccellenza mondiale, l'abbiamo detto in tutti i modi, nell'immunoterapia. È in grado di dire una parola di speranza sui suoi effetti per il mesotelioma? Assolutamente sì, io credo che ormai ci sono, cominciano ad esserci diversi studi, diverse sperimentazioni che utilizzano il mesotelioma, e quindi spero che nel giro di pochi anni potremo certamente impattare almeno sulla sopravvivenza dei pazienti. Professore, un'ultima domanda, conta molto l'alimentazione nella cura? L'alimentazione che nella cura conta nei termini in cui è un'alimentazione che è variata, che non crea particolari squilibri, e certamente quello che normalmente viene suggerito e suggeriamo ai pazienti è di fare un'alimentazione variata, perché non c'è realmente nulla che possono fare per migliorare l'efficacia di questi trattamenti. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Lo Stato Islamico è un mondo chiuso. Quello che sappiamo è quello che vogliono farci vedere. Centinaia di filmati diffusi ogni giorno per esaltare le masse arabe e terrorizzare quelle occidentali. I grandi network televisivi hanno deciso di oscurarli. I padroni della rete provano a cancellarne le tracce. Noi li abbiamo visti tutti. Perché 2 anni fa abbiamo deciso di infiltrarci nelle pieghe del web. Qui si sta combattendo una guerra parallela. Abbiamo scaricato ore e ore di filmati prima che venissero cancellati. Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita, manderà in onda questo filmato, quello di cui avete sentito questo breve estratto, ne sentiremo degli altri, un filmato inedito, molto bello, lo manderà in onda lunedì 8 giugno. Un documentario realizzato da chi, Corrado? Un documentario che è stato realizzato da Riccardo Mazzona, Antonio Albanese, Graziella Giangiulio, sono 3 autori che si sono infiltrati dentro la rete anche attraverso degli account falsi, insomma sono riusciti ad intercettare appunto questi materiali e poi certosinamente li hanno messi tutti in fila e poi ne hanno costruito un film. Alcune scene sono del tutto inedite appunto perché sono state poi cancellate magari dai grandi server occidentali, ma loro le avevano già intercettati prima. Cioè, è un materiale che viene tutto da internet? È un materiale che viene tutto da internet ed è un materiale realizzato con prodotti interni allo Stato Islamico. Sì. Secondo te, Corrado, è giusto censurare i video dell'ISIS oppure no? Secondo me sbagliato. Perché? Secondo me è sbagliato perché tutto quello che viene prodotto dallo Stato Islamico è comunque visibile sul web. Ma se dicevi che lo stanno cancellando anche i grandi... Lo stanno cancellando, ma basta pochissimo per accedere. Per rimetterlo. Nel senso, basta farsi un account falso e basta... Sì. Diciamo infiltrarsi per vederle, comunque per tante cose che vengono cancellate moltissime continuano a rimanere. Quindi tu dici è inutile che venga censurato sulla televisione. Milioni di persone possono vederlo comunque sul web senza alcuna mediazione giornalistica. Mm. Che è quella che noi proviamo ad offrire. Secondo te quanto è cinema, quanto è verità? Perché insomma c'è una grande mano. È un gioco di specchi pazzesco, nel senso che tu guardi, noi lo mostreremo, delle sequenze che c'è dentro Salvate il soldato Ryan o il videogame. Grandi citazioni. Il cinema americano viene imitato, si sono appropriati del nostro immaginario. Ecco, Corrado, per realizzare questi filmati che hanno appunto molto di hollywoodiano, l'ISIS ha arruolato ovviamente tecnici specializzati occidentali che utilizzano un linguaggio che è il linguaggio del cinema. Da dove vengono questi tecnici? L'avete scoperto? Per esempio, uno di loro, che tra l'altro pare che sia stato ucciso secondo fonti irachene, si chiama Abu Osama al-Amriki, appunto Abu Osama l'americano, ed è un esperto producer e documentarista, probabilmente era il numero due della branca mediatica jihadista ed era appunto di origini americane. Ci sono i canadesi. Perché io so che anche molti tecnici, diciamo così, che hanno origine nella BBC e che lavorano nei paesi arabi, in realtà sono stati poi arruolati dall'ISIS. Ne avete traccia voi? Non abbiamo i nomi di questi. Dalla qualità e dal lavoro è assolutamente evidente che sia così. Se tu guardi il Cantley, no? L'ostaggio in mano all'ISIS, che è un ex reporter in perfetto stile BBC, è un reporter inglese che da ostaggio è diventato in qualche maniera reporter, certo, dello Stato Islamico, narratore, sì. Ecco, lui incarna proprio quello stile, no? Certo. Giornalistico occidentale che viene utilizzato da loro appunto come un gioco di specchi per dire siamo come voi, no? Sì. Quasi ci deridono, è quasi una caricatura. Ecco, questi tecnici, secondo te sono prevalentemente pagati oppure sono militanti? L'avete scoperto? Ne sapete qualcosa? Sono pagati. Quelli che hanno realizzato questo documentario sostengono che ci sia un cambio di strategia, cioè che nelle ultime settimane i video siano cambiati e che questa perfezione hollywoodiana abbia lasciato il passo a dei video un po' più dimessi e che comunque raccontano storie quotidiane, diciamo, di benessere nelle città, certo, dell'arrivo della pace con lo Stato Islamico, come se fossimo passati in un'altra fase. Dal terrore loro, alla vita comune. Questo lo attribuiscono al fatto che alcuni di questi producer, di questi tecnici, siano stati o uccisi oppure siano tornati in Europa con le borse piene di soldi. Ecco, Corrado, sentiamo quest'altra clip delle colonne di SUV. Le colonne trionfanti entrano in città. I SUV nuovi fiammanti con il brand dell'ISIS. I locali all'inizio osservano esterrefatti. Poi però i soldati iniziano a distribuire caramelle. Funziona. Ecco, sembrano i video delle forze armate americane, le caramelle come la cioccolata sostanzialmente. È così, ricorda veramente l'arrivo delle truppe della liberazione. In questi video dell'ISIS si riconoscono molti format, i SUV che entrano nella città, appunto il martire che lascia il suo ultimo messaggio prima di farsi esplodere, i bambini killer, le esecuzioni violentissime, sono tutte puntate di un unico racconto il cui messaggio mi sembra di capire è vieni a combattere con noi. Ecco, questa propaganda è diretta al mondo islamico dal punto di vista dell'arruolarsi? Sì, al mondo islamico, ma soprattutto ai giovani che vivono in Occidente, che sono musulmani ma vivono da noi. Nel mondo occidentale, in realtà, che ha perso molto gli ideali politici e sono in crisi anche quelli religiosi, può fare sempre più presa un messaggio su giovani che cercano l'assoluto? Assolutamente sì, ma non è soltanto l'assoluto, perché quello che tu vedi in questi video è che chi si arruola è un senso della vita, insomma, ha un'ideologia forte a cui aderire, ma anche una serie di benefit pratici, sì, perché comunque magari delle persone che sono sfigate in qualche bandiera europea arrivano lì, hanno un SUV fiammante, hanno le donne, Certo. Perché le donne ridotte in schiavitù diventano un benefit sessuale per chi si arruola e viene dall'Occidente. Quindi ideologie totalizzanti e convenienze. Sentiamo quest'altra clip. Quando l'ISIS arriva in un luogo, pensa innanzitutto a connettere le persone al web. Computer, videogiochi, gelati, caramelle. Come potranno questi ragazzi, che vivono in villaggi senza elettricità e acqua potabile, odiare lo Stato islamico, oggi e in futuro? Gli internet point diventano un luogo di scambio quotidiano. I ragazzi portano qui le chiavette USB e ne ricevono delle nuove. I video di propaganda si diffondono, gli adolescenti diventano mujahideen della comunicazione. È un flusso che nessuno può fermare, a meno che non si rinunci a internet. Quindi gelati, caramelle, ma sentiamo anche computer, soprattutto internet, che è conquistato in qualche modo, diventa un amplificatore, come dite voi, un flusso che diventa inarrestabile sostanzialmente. Eh sì, è il modello You Reporter praticamente, certo. Tutti sono reporter di se stessi, tieni conto che dove arriva lo Stato islamico tutto viene distrutto tranne che le antenne di trasmissione dei segnali. Proprio perché il web è fondamentale, quindi bisogna assolutamente preservarlo. Certo. E la cosa impressionante è che in questo documentario viene raccontato proprio che come è organizzato il sistema di produzione, cioè esistono quattro grandi case di produzione, esistono degli internet point dove vengono messe le chiavette e i video, c'è un'organizzazione statale che funziona proprio. E chi ha scelto questa strada di comunicazione? Senti, ma in questo scontro che è così importante ai fini degli equilibri complessivi, perché non interessa come dovrebbe il pubblico italiano, secondo te? È un problema di racconto o è la paura di sapere? Secondo me è la paura di sapere ed è l'angoscia della crisi economica è talmente sovrastante che non ci fa capire che la crisi economica che stiamo attraversando è niente rispetto al pericolo che stiamo correndo. Ma, c'è anche, permettimi forse, un po' di provincialismo molto, in Italia su questo. Molto, cioè, purtroppo dovremmo renderci conto che questa è la prima grande emergenza dei prossimi 10 anni. Ecco, ricordo a tutti lunedì 8 giugno a Piazza Pulita, Corrado Formigli con questo special molto bello. In tutto questo, l'incontro dei paesi che fanno parte della coalizione anti-ISIS è uscito con uno zero, un nulla di fatto, quindi non è una grande notizia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Non sei molto bella e neanche intelligente, ma non ti importa niente perché tu non lo sai. Tu vivi per ballare, sei in cerca dell'amore, ma quale amore ancora non lo sai. Oggi Pietrangelo e oggi perché il derviscio ha spiegato quanto importante sia il tu, perché ha detto che l'avventura più complicata dell'esistenza non è l'io, né il superio, né tantomeno l'ego, l'es, ma il tu. E lo ha spiegato convocando nel vagone di coda tutto un esercito di innamorati catturati da un'unica domanda: perché proprio tu? C'erano infatti ragazze coi fiori tra i capelli, coi sorrisi ai brutti e ai belli, e poi c'erano ragazzi affaticati nel parlare a chi nel frattempo si guarda intorno. E il derviscio ha dunque spiegato il fondamentale gradino del tu nella scala della conoscenza, la cui unica meta e il riconoscere se stessi in quel tu. Non esiste infatti l'io, esiste solo il tu. E la domanda di Lucio Battisti, questa nella canzone dal titolo Una, è: perché proprio tu? Ti accontento in ogni cosa, tutto ciò per una rosa che non ha nessun profumo, che è è di plastica oramai. Mario, il mistero del perché proprio io lo ascolto ormai, sono in catalessi. Catalessi in estasi. Sì. No, catalessi. Perché, no. Ma io sono così, sono un ragazzo pratico di campagna. Vabbè, però anche capito. Lui di paese. Andiamo, andiamo con le bolle, va? Questo è, insomma, diciamo che ha partecipato la regia alla selezione stamattina, però è bello, fallo andare un po'. Oh, andiamo in America, perché ieri, molto interessante, il Fondo Monetario ha pregato la Federal Reserve di non alzare i tassi entro quest'anno. Vuol dire che la cosa è, no, come dire, ti lascia un attimino attonito, perché insomma, la Fed è la Fed alla fine, però evidentemente hanno paura di un controshock su un rialzo dei tassi, quindi questa secondo me è molto interessante. Insomma, poche idee ma confuse. Sì, sì, è la politica del wait and see, uno chiede, vabbè, cosa? Prima o poi qualcosa accadrà. Escono i dati sull'occupazione americana, questa è una cosa molto importante, gli analisti si attendono la creazione di circa 226.000 nuovi posti di lavoro, un tasso di disoccupazione al 5.4%, forse sono ottimisti, non lo so. E arrivano oggi? Vedremo, sì, arrivano oggi, c'è molta attesa nelle borse che hanno aperto in negativo perché ci sono problemi, come sapete, con la Grecia, che oggi non ha pagato i 300 milioni. Non è che parliamo troppo di Grecia, come ci spiega Lesina sul Corriere della Sera oggi? Io non lo so. No, dice che si parla troppo di Grecia. E non parliamone più. Vabbè. No, io chiedo a te che sei il nostro esperto. Ma a me sembra una cosa molto interessante, no? Salamino! Il vizietto qui fa duopo. Si cammina come su di un filo. E domani a Verona faranno il Pride. È il Pride, sì, del Nord-Est. Il comune non dà il patrocinio e però i vigili urbani sono allertati. Multe a chi si spoglia. Verrà in Veneto, caro Mario, lo sai chi? Anche il consigliere di Barack Obama per i diritti GLBT. Si dice così? GLBT, come si dice? Guarda, io in materia sono un disastro. Comunque c'è scritto Genova, Livorno, Bologna, GLBT. Torino, non lo so pronunciare. E comunque questi GLBT, vanno lì. Se si spoglia però ci saranno multe anche per lui. Verona, come giustamente ricorda sempre Flavio Tosi, è la seconda città romana. E se quello che nella seconda sembra solo una novità, nella prima Roma invece diventa un obbligo. E Roma, che pure si sveglia oggi nel frastuono dello scandalo, ricordiamolo, 44 arrestati, indagati, esponenti politici da ogni dove, Buzzi, il RAS delle cooperative che così dice di Roma, e la mucca che va munta, e se Marino resta lì ci mangiamo la capitale, per molto meno sappiamo che in altre città vengono riconsegnate immediatamente all'autorità dello Stato. Ma Roma è Roma! Roma è Roma, in Marino, che ieri in quel manicomio si faceva fotografare in bicicletta, lo sa come risolvere i problemi della città, se solo ci fossero problemi davvero a Roma. Perché secondo me non è vero. Non è vero. Non ci sono. Per esempio, dice solo buche. Non sono buche, sono percorsi creativi. Sì, sì. Vabbè, la allora... spazzatura, quello che a oggi voi. Oggi faccio sembra... le foto, così gliele mandiamo. No, sono percorsi creativi, tu non lo capisci. Sì, un po' puzzolenti. Non lo capisci però. Perché vuoi fare il catatonico, il catalettico. Via del Porto Fluviale. Il non dialettico. Allora, per esempio, la spazzatura. Ovunque. Ma quella spazzatura, lo sai che cos'è? Sono installazioni artistiche. Sono cumuli realisti, per cui devi anche sentire un certo odore. Poi per esempio, perché gli autobus sono sempre affollati, arrivano in ritardo? Perché c'è una spiegazione. Perché? Allora, il ritardo serve per socializzare. Poi sono affollati perché comunque il petting fa duopo. Però dovete evitare quelle cose eterosessuali. Quelle le dovete evitare per non dare un dispiacere al consigliere di Barack Obama, che viene apposta viene a spiegarci questa cosa Glibt e quindi però e se viene a Roma lui no, se si spoglia non viene multato, anzi viene chiamato a fare il testimone. Ha scritto, è meraviglioso. Poi che cosa succede? Succede che c'è la soluzione a tutto. Per esempio è andato a Battistini dove è successo quello che è successo con la macchina a tutta velocità, travolge 9 passanti e ne ammazza uno, no? La vicenda dei Rom. Sapete come l'ha risolto? L'ha risolto aprendo un registro delle unioni civili. È tutto, e si è calmato tutto. Tutto. Poi sempre con la sua bicicletta, perché ricordiamolo, lui è il più bravo, il più bello, il più biciclettone, e tra ciclo e riciclo l'epopea di Ignazio Marino si concluderà con questa canzone. Ma dove vai, belletta in bicicletta, così di fretta pedalando con orologio? Le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro. Ma secondo te dovrebbe essere sciolto? Certo. Ma insomma, sciolto di più. Mi pare proprio che ci sono tutte le cose. Com'era quel proverbio? Quanto danno fa un cretino, manco un porco nel giardino. Ah, ma questo non lo capisco. Senti, ci hanno chiesto in parecchi dove opera il professor Maio, cioè dove cura. Ecco, lo ripeto, a Siena. Il professor Maio è a Siena. Bolla. Bollina. Si chiama Déjà Vu e annuncia il prossimo album, lo passiamo un po' di giorni credo. Dovete ascoltarla in cuffia, lo consiglio, perché sentirete un sound di una raffinatezza incredibile. Senti? Disco music, rivista e corretta, meraviglioso. Petrolio. Oggi a Vienna si riunisce il cartello dei produttori dell'OPEC. L'Arabia Saudita continuerà sicuramente a fare la sua strategia che qui abbiamo ribattezzato dell'omino nel pozzo. Nel pozzo ci sono gli americani, ma un sacco di altri paesi che col petrolio vivevano. Gli americani hanno subito un contraccolpo sulla loro strategia dello shale oil. La strategia è ancora quella, però. Cioè? Nessun taglio alla produzione e prezzo basso, anzi probabilmente aumenta perché si aspettano... scende ancora? Si tiene sotto i 60, sui 60, dipende dalle tensioni geopolitiche, però i sauditi si aspettano un aumento della domanda nel secondo semestre del 2015. La quota prevista di produzione è 30 milioni di barili al giorno, che è una quota inimmaginabile, ma è così, e buona fortuna. Vedremo. Perché comunque il prezzo basso del petrolio crea tensioni geopolitiche molto grandi. Il canzoniere. Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute. È troppo amara, è troppo amara, io non la posso bere. Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata? Oh. Me lo figuro, l'ho sentita all'odore. Voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi me la beverò, così non la posso bere. Ma 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Don't be a slob, don't get a job, go back to class, you can pass. And to start the day off nice and fine, we're gonna play a new old favorite of mine. Beh, questo è proprio un ritorno sempre verde, Frankie Valli, Grease. Questo era proprio titoli d'apertura del film col cartone animato, non so se te lo ricordi. È vero. Io ero piccolo, insomma. Io ero già grande, purtroppo. No, come purtroppo, meno male, tu hai vissuto un periodo meraviglioso. Vai. Di creatività. Fusioni. A proposito di creatività, il 2015 è partito a razzo, come sapete qua raccontiamo questo particolare settore, soprattutto quello delle TLC e della comunicazione, che è in pienissima rivoluzione, ne vedremo delle belle. Sì. Vodafone potrebbe fondersi con Liberty Global, è uno che soggetto che lavora sul cavo, ma anche soluzioni e applicazioni per la televisione attraverso Horizon, mi pare. Insomma, però questa cosa darebbe vita a un gruppo da 230 miliardi di dollari di fatturato, integrazione di mezzi, espansione nei paesi. Chi ha cavi cerca contenuti, chi ha contenuti cerca cavi per avere le nuove autostrade, come nuove autostrade, vero? Quindi non so, sai qual è la cosa che mi lascia così? Dimmi. Che l'Italia sta succedendo niente. Beh, non è vero. Vedremo. Telecom, sì, l'arrivo Telecom di Bolloré forse cambierà Telecom, molte cose. Telecom. Beh, intanto, come ogni venerdì, è arrivato il momento della nostra posta del cuore. Se volete raccontarci i vostri problemi di cuore, mix24@radio24.it. Sara, chi ci scrive oggi? Diceva che per far funzionare una relazione bisogna avere un interesse in comune. Non andate d'accordo? Aprite una tabaccheria, diceva mia nonna, che era simpatica ma di amore non capiva niente. Con mio marito ci siamo conosciuti all'università, medici entrambi, grande passione in comune e tanti bei progetti. Fino a quando, terminata la specializzazione come prima del mio corso, io sono rimasta in ospedale accanto al prof e lui è stato costretto a cercare spazio altrove. Oggi guadagno più di lui, firmo il doppio delle pubblicazioni e ai congressi mi pagano il biglietto di prima classe, mentre a lui la turistica. Lui non mi fa pesare nulla, fa il suo lavoro, ma ci confrontiamo sempre meno e anche fisicamente siamo sempre più lontani. Non so che fare, io lo amo, ma ho paura a parlargli di questa distanza. Non potrei mai rinunciare alla mia carriera per lui, perché finirei per odiarlo. Allo stesso modo, non posso perdere lui per la mia carriera. Come si concilia l'amore con la competizione? Che faccio? Pietrangelo, inizi sempre tu, vai avanti tu, che a me scappa da ridere. Allora, signora... E io l'unico consiglio che le posso dare è questo: innanzitutto cominci a viaggiare in turistica e in economica anche lei, rinunci al privilegio. Poi, dato che lei firma il doppio delle pubblicazioni, quantomeno se li faccia correggere da suo marito. E infine, nella scelta tra l'amore e la carriera, accolga l'amore, tanto la carriera finisce. Hai capito, Sara? Qua lezioni ma per tutti. Ma pensa, cara Lucia, io qua vorrei far sentire questa canzone che tutti riconosceranno, soprattutto le donne, è la colonna sonora della donna in carriera. Cara Lucia, dicevo, mi hai dato la sensazione di tenerci proprio tanto a questo lavoro, infatti sottolineavi quanto sei brava, quanti successi, e quindi ti dedico un bel applauso. Immagino la fatica e i sacrifici che hai sopportato per conquistarti un posto al sole, però forse sei tu che l'hai allontanato con i tuoi impegni e i tuoi obiettivi. L'amore, secondo me, ha bisogno di tempo e attenzioni, e allora ti lascio riflettere con questa canzone. Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì perché la bellezza dei vent'anni. Abbiamo un vincitore del canzoniere, credo e spero, Mary da Cosenza, ho letto sì? Bene? Sì, sono in linea, sì, sono io. Buongiorno signora. Allora? E il Pinocchio di Collodi di Carmelo Bene. Indovinato, giusto, Feltrinelli. Brava signora, bravissima. Cosenza, che si fa di bello? Bah, non so, è una città che si muove, ci sono tante cose che si stanno muovendo perché c'è vicino all'università. Ah, e lei cosa fa? Insegna all'università? Sì, io abito vicino all'università. Ma insegna all'università o che no, cosa no, fa? No, ah, no, no, no. No. Però ho avuto modo di frequentarla e quindi ho notato questa vivacità. Bene, grazie signore, viva Cosenza allora. Grazie, grazie mille, c'è ancora una bolla, Mario. No, c'ho due aggiornamenti su due cose che ho detto. Il primo è che il petrolio è proiettato ad avere il più grosso collasso del prezzo negli ultimi 3 mesi, quindi si aspettano quella decisione che dicevamo dell'OPEC. L'altra è che Vodafone ha confermato adesso di essere in trattativa con Liberty Global. Bene. E se vuoi una cosa estiva, gli italiani che andranno in vacanza saranno di più, 2 milioni, ma con un budget ridotto. Bene. Più italiani e meno soldi. Meno soldi. Curioso, bella sintesi. Senti Marina Milone, oggi dopo il giornale radio che storia ci racconti? Oggi raccontiamo la storia di un personaggio ambiguo, Celeste Di Porto. È una ragazza ebrea, bella, chiacchierata, ma soprattutto una spia che consegna gli ebrei ai nazisti. E della sua storia e del tema della delazione si è occupata una nuova ricerca della Fondazione del Museo della Shoah, che fa luce sui numeri, sulle responsabilità e sul profilo degli ebrei deportati da Roma prima e dopo il 16 ottobre del 43, il giorno del rastrellamento del ghetto. Bene, dopo il giornale radio la storia di Celeste Di Porto, ma prima della pubblicità, Samba della Rosa di Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Tochigno. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da voler, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare, rosa da servire da imprigionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da fuggire e da ritrovare, e se c'è una rosa donna di più. Rosa dei sogni miei, rosa da vedere,